Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Italia-Francia, pattugliamento congiunto per fermare l'arrivo di tunisini, nuovo naufragio di migranti a Pantelleria. Italiani sempre meno risparmiosi, cala ancora il potere d'acquisto delle famiglie. Berlusconi show con gli studenti, volevo cambiare tutto, quante illusioni. Libia, civili colpiti dal fuoco NATO, non chiediamo scusa, la situazione è fluida, dice il comando da Napoli. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Questi i nostri titoli. Prima però subito da segnalare c'è una notizia degli ultimi minuti. La Procura della Repubblica di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 20 tra sindaci, commissari, prefettizie e pubblici funzionari sono accusati di epidemia colposa e abuso d'ufficio per avere consentito la permanenza di cumuli di rifiuti in strada nel corso dell'emergenza del 2008. Per altri 16 indagati è stato invece disposto lo stralcio che prelude ad una probabile richiesta di archiviazione. Tra le persone per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio ci sono l'ex prefetto di Napoli Alessandro Pansa, commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, l'ex governatore della Campania Antonio Bassolino, l'attuale sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino. Così la notizia degli ultimi minuti. Veniamo invece ora alla questione immigrati, più collaborazione tra Italia e Francia. Questi sarebbero i primi commenti che emergono dal vertice tra ministri degli interni che si è concluso pochissimi istanti fa a Milano. E allora cominciamo per il momento da qui, in studio a fare il punto, Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. Il vertice italo-francese è iniziato poco dopo le 11 ed è terminato poco prima delle 13. Al centro del confronto tra il ministro dell'interno Roberto Maroni e il suo omologo francese Claude Guéant c'era il nodo della questione dei permessi temporanei rilasciati agli immigrati, sul no alla Francia che ha annunciato di essere pronta a respingerli alle frontiere. E i colloqui si sono da poco conclusi, come hai detto. Il ministro Maroni ha annunciato che per sollecitare la Unione Europea a contrastare l'immigrazione clandestina Francia e Italia hanno concordemente deciso un pattugliamento comune sulle coste tunisine fra Italia e Francia per bloccare le partenze dalla Tunisia. Maroni ha anche sottolineato che Francia e Italia studieranno congiuntamente programmi di rimpatrio con il sostegno dell'Unione Europea ai possessori di un permesso di soggiorno temporaneo. Si profila dunque una prima intesa. Ieri proprio il ministro dell'Interno Guéant aveva annunciato di aver chiesto ai suoi prefetti di adottare un'interpretazione restrittiva di Schengen. Maroni aveva replicato che Parigi sarebbe dovuta uscire dal trattato di Schengen o comunque avrebbe dovuto sospenderlo se avesse seguito la politica dei respingimenti. Insomma, c'era tensione. Oggi questo passo in avanti, vediamo di capire più avanti se si tratta di un'intesa piena, e ci aggiorniamo nel corso del GR. A questo momento possiamo ascoltare la voce di Roberto Maroni durante la conferenza stampa. Sentiamo. Delle coste, con un pattugliamento congiunto aereo-navale, abbiamo concordato sull'opportunità di studiare congiuntamente dei programmi di rimpatrio per questi a cui viene dato il permesso di soggiorno temporaneo, programmi di rimpatrio volontario nel corso della durata del permesso di soggiorno o di rimpatrio comunque al termine della durata del permesso stesso, con il sostegno dell'Unione Europea. E sulla questione dei permessi temporanei. E così dunque la conferenza stampa del ministro dell'interno Roberto Maroni. Grazie a Paolo Piacenza, magari ci torneremo anche più avanti. Intanto però sul ruolo della Francia e del presidente Sarkozy, il commento del nostro direttore Fabio Tamburini. C'è un detto che dice: il troppo stroppia. Si adatta perfettamente a fotografare le scelte del presidente francese Nicolas Sarkozy. Sono stati proprio i francesi a forzare la mano con la Libia di Gheddafi. Uno dei risultati, di impatto non trascurabile, è un'ondata di clandestini che sbarcano a Lampedusa. Adesso il problema è quale paese se ne farà carico. Sarkozy ha una posizione chiara: se li tenga l'Italia, in Francia non li vogliamo. troppo comodo e non è la prima volta che i francesi fanno i furbi. Sarkozy e i suoi teorizzano le liberalizzazioni, ma naturalmente quelle degli altri. Loro infatti mantengono saldamente sotto controllo pubblico le telecomunicazioni di France Telecom e l'energia con EDF. Bloccano gli acquisti di società francesi, ma si scandalizzano quando per una volta non hanno mano libera in Italia per la conquista di Parmalat. Attaccano Gheddafi, puntando tra l'altro all'espansione della francese Total in Libia, ma pretendono che sia solo l'Italia a farsi carico dei clandestini. Il troppo stroppia, caro Sarkozy. Adesso è bene che i francesi si diano una regolata e l'Europa, se c'è, è bene che batta un colpo. E dicevamo, sul fronte degli arrivi, questa mattina alcuni barconi sulle diretti, sulle coste italiane, sono stati dirottati a Malta, ma proprio pochissimi istanti fa è arrivata un'altra notizia che vi abbiamo dato nei nostri titoli. C'è stato un altro naufragio di migranti a Pantelleria. Cosa è successo, Andrea Viali? Sì, non è stato in realtà un vero e proprio naufragio, piuttosto un barcone che si è avvicinato al porto di Pantelleria. Per non essere fermati, gli scafisti hanno fatto gettare in mare tutti i migranti, hanno costretto i migranti a buttarsi in mare. I migranti sono stati però soccorsi dalla capitaneria di porto e gli scafisti sono stati arrestati. Questo è successo a Pantelleria. A Lampedusa invece c'è da segnalare che l'isola è di fatto rimasta con soltanto una settantina di tunisini, perché stanotte un migliaio di migranti sono stati portati via con la nave Flaminia, e questi 70 tunisini rimasti sull'isola, essendo arrivati dopo il 5 aprile, non potranno ottenere il permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari e quindi saranno tutti rimpatriati. Domani sull'isola, lo sappiamo, è atteso il premier Berlusconi. Intanto stanotte, dopo un braccio di ferro diplomatico fra il Viminale e le autorità di Malta, è tornata alla Valletta una motovedetta maltese che aveva cercato di portare a Lampedusa alcuni migranti soccorsi in mare nel canale di Sicilia, non lontano da dove è avvenuto mercoledì notte il naufragio. Nella zona le ricerche dei dispersi sono riprese stamattina, ma sono ancora senza esito, Anna. Grazie anche ad Andrea Viali. Sentivamo, domani Berlusconi tornerà a Lampedusa. Pochi minuti fa invece ha terminato di parlare dopo aver incontrato i giovani universitari, e allora andiamo anche da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. L'occasione per l'intervento di oggi è offerto dalla cerimonia Palazzo Chigi di premiazione delle giovani eccellenza del progetto Campus Mentis. Il premier ha invitato i giovani a dare il meglio nella loro professione e ha ricordato quindi i suoi successi di imprenditore e di uomo politico. Da qui all'attualità della legislatura, con le riforme messe in campo dal governo, giustizia, architettura, costituzionale, fisco. Abbiamo una maggioranza più esile nel numero, ma assolutamente più coesa, e quindi porteremo a casa le riforme, a cominciare da quella della giustizia, ha detto Berlusconi. Ma sentiamo le sue parole. Mi sono trovato quindi con una maggioranza che era una maggioranza di coalizione, e nella coalizione c'erano alcuni partiti, e per esempio per quanto riguarda la riforma della giustizia, il partito di Fini e il partito di Casini, che ogni volta che si presentava un'ipotesi di riforma stavano dalla parte dei privilegi dei giudici. Per arrivare a un paese che sia una vera democrazia dobbiamo cambiare l'architettura istituzionale, ha detto ancora Berlusconi, ma la cerimonia è stata caratterizzata da un premier in vena di battute e di complimenti ai giovani premiati. Sentiamo allora un altro passaggio del Cavaliere. Ecco qua, benissimo, Valentina Pauselli, sei tu, e tu invece l'altro. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Complimenti e grazie. Sì, sì, sei abbastanza carino, potresti andare. Uno e uno. Queste dunque le parole di Berlusconi all'incontro con i giovani universitari. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. Nel frattempo sono emersi nuovi particolari dal vertice a Milano sull'immigrazione tra Italia e Francia. Paolo Piacenza. Sì, una precisazione del ministro degli interni francese Claude Guéant, che ha detto: per quanto riguarda i permessi di soggiorno temporanei ci muoveremo nel rispetto dell'accordo di Schengen e della libera circolazione, ma anche nel rispetto dell'articolo 5 che prevede il possesso da parte degli immigrati di risorse finanziarie e documenti. Il ministro Maroni si è detto soddisfatto dell'incontro di oggi. Da una crisi può nascere un'iniziativa forte, ha detto. Grazie. Allora, sul fronte europeo restiamo per un'altra crisi, quello che riguarda il Portogallo. Se ne discute proprio in questi minuti al tavolo dell'Ecofin a Budapest. Alessandro Merli. Alessandro Merli, qualche problema con la linea, torneremo a collegarci tra poco. Nel frattempo, allora, in Italia, da Alessandro Merli, forse l'abbiamo ritrovato. Alessandro? Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, eccoci. Allora, tutto deciso per il prestito come per Grecia-Irlanda, per il Portogallo, che si fa? Non è deciso ancora niente, però è finito in questo istante l'incontro dell'Eurogruppo, cioè i paesi che partecipano all'ora dell'euro, e sta per iniziare a momenti la conferenza stampa a cui partecipano Trichet, il cosiddetto Mister Euro, Jean-Claude Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, e si prevede che quantomeno annuncino l'inizio del negoziato con il Portogallo. Alcuni paesi, quelli più rigoristi, diciamo, nell'area dell'euro, hanno già fatto sapere che si aspettano però che Lisbona elabori un piano di austerità molto molto duro, ancora più duro di quello che è stato bocciato dal Parlamento portoghese qualche settimana fa, per poter avere in cambio gli aiuti. Naturalmente a Lisbona c'è la situazione di un governo dimissionario, per cui non sarà facile arrivare a un accordo, però i tempi dovranno essere per forza molto brevi, visto che il Portogallo ha bisogno di 9 miliardi di euro entro giugno. Grazie allora ad Alessandro Merli. Come ci dicevi tu, l'incontro sta per cominciare, vi aggiorneremo nelle prossime edizioni o appena ci saranno novità. In Italia, fotografare intanto la situazione economica, e oggi invece l'Istat: il reddito delle famiglie nel 2010 è aumentato lo 0,9% su base annua dopo la caduta segnata nell'anno precedente, e quanto rileva l'Istituto di Statistica, precisando che si tratta del reddito lordo disponibile, ovvero l'ammontare di risorse destinate al consumo e al risparmio. Nello stesso periodo è continuato invece però il calo del potere d'acquisto reale, meno 0,6%, riduzione anche per la propensione al risparmio. E allora restiamo in ambito economico, appuntamento alle 18 oggi per il CDA di Generali, che dovrà nominare il presidente dopo le dimissioni di Cesare Geronzi. Tutto sembra far pensare che il futuro numero uno sarà Gabriele Galateri, presidente Telecom uscente. Lecito però aspettarsi sorprese oppure no? Lo chiediamo a Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore, anche oggi in diretta con noi. Buongiorno. Salve, buona giornata. Ma non sembra che ce ne siano di sorprese. Effettivamente il nome che fin dall'inizio era stato aveva ricevuto i maggiori consensi è quello di Galateri, e su quello sembra che si vada a chiudere, anche se per la verità non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale. Per adesso lo sapremo sicuramente alle 6 del pomeriggio. Si annuncia però una riunione breve, quindi insomma non mi sembra che ci siano in corso chissà quali giochi e chissà quali discussioni, ecco. Allora, grazie anche con te naturalmente, gli aggiornamenti nel corso della giornata, e poi dicevamo alle 18 il CDA di Generali. C'è un altro fronte caldo che dobbiamo tutti affrontare in queste ore. Una battuta naturalmente per dire che è aprile, ma è già estate. Dureranno le temperature di questi giorni? Sentiamo Mario Giugliacci al microfono di Dario Ceccarelli. Che caldo, che caldo. Allora, colonnello Giugliacci, tutti in canottiera. Sì, ha ragione, no? E tutti quanti che si lamentano, che dicono ma che strano tempo. In realtà non dimentichiamoci che la primavera parte così, quindi la gente, diciamo, in parte si lamenta, ha ragione, in parte a torto. Ha ragione perché fa un caldo quasi eccezionale. Non è un record perché valori così già l'abbiamo avuti addirittura in marzo, non in aprile. Ma siamo già entrati nell'estate o ci sarà un colpo di coda dell'inverno? Ci saranno senz'altro dei colpi di coda, direi già la settimana prossima i valori tenderanno a scendere fino a portarsi alla fine della settimana prossima su valori quasi nella norma, no? Scendere di 10 gradi di temperatura in una settimana ci farà dire oddio, è ritornato il freddo. Vedrà, è senz'altro così. E alcuni dicono che è caldo, è caldo, è caldo che fa. Lei che è un uomo attento, non le sembra che l'uomo moderno sia un po' troppo delicato per quanto riguarda i cambiamenti meteorologici? Questo è vero, perché ormai l'abitudine in inverno a stare ben, belli caldi vicino ai caloriferi, l'abitudine in estate a stare con l'aria condizionata, appena si esce, si mette il naso fuori casa, uno dice oddio che freddo che fa in inverno, oddio che caldo che fa in estate, no? Le 13 e 18 minuti, le notizie di oggi di GR24, Italia-Francia, pattugliamento congiunto per fermare l'arrivo di tunisini, gli scafisti buttano in acqua 40 immigrati a Pantelleria. Italiani sempre meno risparmiosi, cala ancora il potere d'acquisto delle famiglie. Berlusconi show con gli studenti, volevo cambiare tutto, quante illusioni. Libia, civili colpiti dal fuoco NATO, non chiediamo scusa, la situazione è fluida, dice il comando da Napoli. E riprendiamo allora proprio dalla Libia, misurata ancora sotto assedio e la NATO accusata, dicevamo, di aver fatto strage di civili. L'ho già detto e non intendo scusarmi. La situazione tra Brega e Ashdabia era e resta fluida, con veicoli che andavano avanti e indietro, e il punto è che quei veicoli noi li avevamo già visti a Misurata attaccare i civili. Pacato e inflessibile, come conviene a un ammiraglio di Sua Maestà, Russell Harding, vicecomandante dell'operazione NATO in Libia, risponde insieme ai ribelli, insorti per la morte di diversi compagni in un raid dell'Alleanza, e al generale americano Carter Hamm, che al Congresso degli Stati Uniti ha parlato di situazione di stallo tra le forze dei ribelli e quelle pro-Gheddafi. Nessuno stallo, ha puntualizzato anche la portavoce della NATO, Lungescu, auspicando però una soluzione politica al conflitto in tempi rapidi, tanto più che Gheddafi, dice, sta cominciando a usare i civili come scudi umani per proteggere i suoi armamenti. Da febbraio Medici Senza Frontiere continua a portare medicinali e soccorsi in Libia, a Bengasi, Tobruk e Misurata. E da quest'ultima città è riuscita ad evacuare domenica via nave 70 feriti gravi. Misurata è allo stremo, racconta Sergio Cecchini. Si hanno notevoli difficoltà da parte delle persone a raggiungere centri sanitari, ospedali, a ricevere assistenza medica per la paura di essere coinvolti negli scontri o perché le stesse strutture sanitarie, come il caso dell'ospedale di Misurata, sono state spesso oggetto di azioni militari. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E com'è invece la situazione in Costa d'Avorio? Anche qui gli aggiornamenti da Gigi Donelli. Sì, buongiorno. Mentre il presidente uscente ormai da 4 mesi, Laurent Gbagbo, continua a essere barricato all'interno della villa di Abidjan, quello che succede intorno è la tragedia tipica di queste fini, di queste crisi che si protraggono per anni. E l'ONU proprio questa mattina ha parlato, ha annunciato la scoperta di 100 corpi in un'unica zona, una zona al confine quindi con tra la Costa d'Avorio e la Liberia. Questo è uno degli effetti della guerra civile, di un paese spaccato in due, un paese che attende ormai da mesi la conclusione di questa incredibile separazione tra presidenti, quello entrante, quello che ha vinto le elezioni, Ouattara, che non riesce a entrare nel palazzo del potere, e quello che non intende mollare la presa. In tutto questo appunto i civili ci vanno di mezzo, l'ONU chiede l'apertura di corridoi umanitari e intanto registra il numero delle vittime che continuano drammaticamente a crescere. Grazie a Gigi Donelli. Andiamo anche in Giappone dopo che è tornato l'incubo terremoto, l'inviato. La quarta settimana dalla catastrofe dell'11 marzo si è chiusa in Giappone con una nota di ottimismo da parte degli investitori. La borsa di Tokyo ha chiuso oggi in rialzo dell'1,9% e mostra di aver recuperato circa 2/3 rispetto al crollo avvenuto nei primi giorni dopo il terremoto. Non solo, la borsa ha snobbato il nuovo forte sisma che ieri sera con magnitudo 7,1 ha scosso il Giappone settentrionale. Si temeva forse di peggio rispetto ai 3 morti e 141 feriti dichiarati, e le autorità sono state tempestive, forse fin troppo, nel dichiarare che non ci sono stati nuovi problemi alle centrali nucleari. Non tutto però è andato liscio, anzi, le centrali atomiche della regione hanno accusato momentanee interruzioni di elettricità e delle funzioni di raffreddamento. In particolare l'impianto di Onagawa, a nord di Fukushima e a soli 20 km dall'epicentro del nuovo sisma, acqua radioattiva si è riversata sul pavimento dell'edificio. Inoltre i blackout elettrici hanno costretto alcune aziende elettroniche, a partire da Sony, a chiudere alcune fabbriche che erano state appena riaperte. La produzione di poter riprendersi solo lentamente. I costruttori di auto annunciano riaperture di stabilimenti, ma in realtà i livelli di produzione rimarranno del 50% sotto i programmi a causa delle carenze di componentistica, e a fine mese le vacanze della cosiddetta Golden Week saranno allungate a oltre 2 settimane. Per l'estate poi il governo ha varato un piano per risparmi nei consumi di energia addirittura fino al 25%. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. E torniamo in Italia per parlare di università. Quella dell'università è una riforma che può e deve essere migliorata attraverso un lavoro di squadra, così ha detto questa mattina il ministro dell'istruzione Gelmini al convegno L'università possibile, esperienze in atto, al microfono di Alessandra Schepisi. L'università è pronta a fare la sua parte, ma la politica deve dare un segnale di cambiamento, di inversione di rotta, dice invece il nuovo presidente della conferenza dei rettori Marco Mancini, che ha intervistato Maria Piera Ceci. Allora, sentiamoli. Io non mi innamoro della riforma che abbiamo approvato, cioè tutte le riforme sono perfettibili, migliorabili e vanno sicuramente affrontate non in maniera ideologica, ma sulla base dei risultati che portano, e quindi noi dobbiamo darci un periodo di tempo sufficiente per capire quale sarà l'impatto della riforma e anche capire i punti di forza e i punti di debolezza, con l'umiltà e la disponibilità a correggere ciò che non funziona. Però io penso che la svolta che abbiamo suggerito al sistema universitario vada oggi consolidata e dobbiamo andare avanti. Noi guardiamo con grande preoccupazione al 2012. Il 2012, come lei sa, è un anno in cui noi avremo un taglio che a questo punto assommerà al 15% a partire dal 2008. Quindi noi ci auguriamo che, a fronte di questo lavoro intenso, impegnativo, che l'università si impegnano a fare nei prossimi mesi, ci sia un gesto, come dire, di attenzione da parte del governo, soprattutto perché l'università rappresenta la spina dorsale dello sviluppo in questo paese. Noi faremo la nostra parte anche per dimostrare quanto l'università è importante. Forse questa cosa si è un po' opacizzata negli ultimi tempi. E se ciò non dovesse accadere, cioè se i tagli resteranno quelli che sono, che cosa rischia il mondo universitario? Beh, lei sa bene che con i tagli che arrivano al 15% noi ci troveremo con gran parte del sistema universitario praticamente al collasso, proprio tecnicamente al collasso. E ora musica e mostre. Alla Galleria Fotografia di Milano, in collaborazione con la Galleria Galletti, fino al 20 aprile allestita la mostra dedicata ai Pink Floyd, ritratti da alcuni grandi fotografi del rock. Il curatore gallerista Lorenzo Elli, al microfono di Adriana Fracchia. Ho aperto una galleria fotografica lo scorso settembre a Milano, che ha una sua specializzazione sulle fotografie d'autore storiche legate al mondo della musica, rock, jazz, blues e anche ad altri temi. Questa, dopo una serie di altre iniziative, è la prima mostra monografica che facciamo. Siamo voluti partire con i Pink Floyd un po' per passioni personali, un po' perché sono amatissimi dal pubblico italiano e un po' perché poi, anche come debito di riconoscenza verso Roger Waters, che è venuto adesso per 4 date a suonare a Milano, poi tornerà a luglio per farne altre 2, forse 3. Noi abbiamo in mostra i lavori di 5 fotografi, sono circa una quarantina di scatti. Le fotografie vanno dallo shooting fotografico per il loro primo disco, 1967, fino a foto della loro ultima tournée, che risale al 94, con una grande dedica finale che è una bellissima foto scattata da Gil Furmanowski in occasione del Live Aid di Londra del 2005. Non si parlavano da anni, come Roger Waters e David Gilmour, invece si ritrovano finalmente a suonare assieme. Prima di chiudere gli aggiornamenti che vi avevamo promesso, l'Eurogruppo ha accolto poco fa la richiesta di assistenza finanziaria avanzata dal Portogallo, invitando le autorità di Lisbona a intavolare subito i negoziati con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario per mettere a punto il piano. Lo ha detto nella conferenza stampa di cui parlavamo in apertura di giornale il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, sottolineando come gli aiuti dovranno essere legati a severe condizioni e servirà anche un ampio consenso da parte dei partiti dell'opposizione portoghese. Tutti gli aggiornamenti, come sempre, nelle prossime edizioni di GR24, a partire da quelle delle 14. Noi invece per il momento ci fermiamo qui. Fabio Cantadori in regia. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.